Gli Angli e i Sassoni, come qualsiasi storico dell'alto medioevo ben sa, formavano un gruppo di tribù del ceppo germanico occidentale che dal V secolo d.C. in poi, insieme agli Iuti, di cui chissà perché non parla mai nessuno, si trasferirono nell'attuale Gran Bretagna, dove, sovrappostisi alla base indigena celto-romana, rappresentavano l'elemento dominante fino alla conquista normanna di 6 secoli dopo. Qualsiasi studioso di filologia germanica, a sua volta, potrà spiegarvi che la loro lingua, l'anglosassone appunto, non è esattamente il progenitore dell'inglese, che pure dagli angli evidentemente ha preso nome, perché quest'ultimo, come lo intendiamo noi, è una lingua geneticamente mista, formatasi solo con il contributo dei surlodati normanni. L'anglosassone ne rappresenta, diciamo, l'elemento germanico. E in effetti il relativo aggettivo in inglese si usa, oltre che in riferimento a fatti, costumi e istituzioni di quei popoli remoti, per indicare parole e costrutti inglesi d'origine germanica, contrapposti a quelli morfologicamente neolatini, o addirittura nell'uso comune per indicare una forma di inglese un po' rozzo, un po' volgare, soprattutto se contenente espressioni tabù, quali ci aspetteremmo sulle labbra di rozzi barbari appena arrivati dalle paludi della Germania centrale e non nell'eloquio forbito dei cavalieri normanni. Poi naturalmente il termine è usato anche come sinonimo pedantesco di inglese, sia per alludere alla comunità umana e culturale più vasta di quella ristretta nei confini dell'attuale Inghilterra, sia riferendosi a qualche cosa di specificamente germanico, appunto, interno a un'unità inglese più ampia. Per esempio, tanto il Regno di Gran Bretagna quanto gli Stati Uniti sono paesi anglosassoni, ma negli Stati Uniti, dove l'inglese è largamente parlato da individui di varia origine etnica e nazionale, dall'epidermide variamente colorata, per essere definiti anglosassoni bisogna essere belli bianchi, dotati di ascendenti presumibilmente immigrati dall'Europa settentrionale e possibilmente appartenere a una chiesa protestante. Se uno di costoro poi si vanterà di essere di puro sangue normanno, lo chiameranno anglosassone lo stesso, senza badare alle finezze linguistiche e senza darsi pena della memoria di Sir Walter Scott, che sul contrasto tra normanni e anglosassoni ha scritto uno dei suoi più famosi romanzi storici. I dati di cui sopra, che sono tratti dall'ultima edizione del Collins English Dictionary, vi sono stati esposti, oltre che per vostra edificazione culturale, per aiutarvi a risolvere un interessante quesito. Tutti quelli che parlano della necessità di addivenire anche nel nostro paese di un modello di democrazia anglosassone o di un sistema elettorale anglosassone, in quale senso usano l'espressione? Si riferiscono agli antichi invasori della Britannia, che probabilmente come strumento per selezionare il ceto politico non andavano molto al di là della mazza ferrata? Difficile. Alludono alla vasta comunità dei popoli e paesi di lingua inglese? Impossibile, perché in quei paesi vigono i modelli più vari di democrazia e di non democrazia e metodi elettorali assolutamente contrastanti. In alcuni, non vi scandalizzate, vige addirittura il sistema proporzionale. Si riferiscono forse a una società potenzialmente razzista, in cui i cittadini sono discriminati secondo l'origine etnica? Data l'ipocrisia vigente nel nostro sistema politico, è improbabile, anche se recentemente il buon Giorgio Bocca ha dichiarato che i militanti della Lega Nord hanno una mentalità anglosassone, che potrebbe far pensare a una qualcosa del genere, ma in realtà lui, che Dio lo perdoni, voleva soltanto paragonarli a quelli del Partito d'Azione, che con tutti i loro difetti proprio razzisti non erano. E allora? Allora io sospetto che costoro vogliono dire semplicemente all'inglese. E perché cacchio non lo dicono? Come vadano le cose in Inghilterra più o meno lo sappiamo, il riferimento dovrebbe essere molto preferibile all'impiego di un termine dotto piuttosto scuro, però di più polivalente dal punto di vista semantico. Se il modello in questione poi fosse collocato oltre manica ma oltre oceano, nulla vieterebbe di dire che vogliamo una democrazia all'americana o alla qualcosa d'altro, no? Invece no. E non solo perché espressioni del genere sono un po' troppo precise, in politica la precisione fa sempre male, il fatto è che quell'oscuro termine linguistico in Italia, e misteriosamente solo in Italia, si è caricato di una specie di valenza politica positiva, non politica, una valenza positiva. Non so, potrete sentire qualche vecchio ornese fascista ripetere che Dio dovrebbe stramaledire gli inglesi, no? O da qualche degenere nostalgico del socialismo reale che l'America e gli americani sono fonte di ogni nequizia. Ma anglosassone è un termine che sentirete pronunciare solo con rispetto. Sentirete parlare di un perfetto aplomb anglosassone, di una sobria moda anglosassone, persino del leggendario stoicismo anglosassone, sempre con un tono di reverente ammirazione, di invidia deferente rivolta a un sistema che gode dello stesso grado d'eccellenza del whisky, delle giacche di tweed, degli impermeabili Burberry, di uno schema istituzionale che, anche se non troppo definito nei particolari, è per definizione superiore al nostro. Con il che, nel caso specifico di chi ci assicura che votando in un certo modo attingeremo finalmente alle vette della democrazia anglosassone, come continuano a blaterare tanto per fare nomi, non so, i vari Pannella, Martelli, Lamalfa, da parte loro si evita di precisare la proposta politica che pure continuano a proporre, perché certe carte è meglio tenersele nella manica e giocarsele con comodo poi, e si rivela, agli occhi di chi solo vuole badarci, si rivela tutto il proprio provincialismo, il proprio pressapoismo culturale, la propria incurabile cialtronaggine e tendenza a prendere la gente per i fondelli, e naturalmente tutta la babbenaggine nostra se continueremo a dargli retta. Well, it's a marvelous night for a moon dance, with the stars up above in your eyes. A fantabulous night to make romance, neath the cover of October skies. You know the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. You know I'm trying to please